Lascia che dica la verità, non avrò più bisogno di negarla. Lascia che dica la verità, non la sentirei più da queste labbra. Lascia che dica la verità, adesso credo proprio che mi tocca. Lascia che dica la verità, non uscirà mai più da questa bocca. Lascia che dica la verità. Per un istante quante volte hai dato ascolto a parole ben più bugiarde da sempre. Buggerarti è stato il mio obiettivo. Guarda, se mentivo era solo per farti abbassare la guardia. Ma adesso sarò come un bicchiere d'acqua, sarò limpido. Osserva l'assenza di trasparenza in mezzo al mio liquido intrinseco di amaro veleno. Falso ma fiero, sempre amato a fermare tutto ciò che non era vero. Un debole per l'inganno e per non essere un debole devo agire attenendomi alle regole del guadagno e uno scambio reciproco, la cui merce è la sorte. Vuol dire che la mia vita corrisponde alla tua morte. Non esci neppure cambiando le carte in tavola, perché sono io il croupier e tu sei giù nella mia trappola. È una trama di menzogne in cui la mente sprofonda. Non sarò più vero dopo stavolta, per questo ascolta. Lascia che dica la verità, non avrò più bisogno di negarla. Lascia che dica la verità, non la sentirei più da queste labbra. Lascia che dica la verità, adesso credo proprio che mi tocca. Lascia che dica la verità, non uscirà mai più da questa bocca. Vuoi fidarti di me? Lascia stare, non è il caso. Mi avvalgo del fatto che mentendo non mi cresce il naso. È l'amore alla pace, preferisco il caso e la disfida. Ho scelto il vero unicamente sui test della scuola guida. Se vai su Wikipedia, scrivi il mio nome e ricerchi, ti appaiono foto di Berlusconi e di Vanna Marchi. Un totale che se entrassi nella casa degli specchi, la mia immagine sarebbe l'unica a non deformarsi. Rischiate di bruciarvi come carboni arsi al fuoco. Per me depistarvi è solo un gioco da ragazzi. Pochi cazzi, non c'è storia, abilità illusoria. Se contratti con me, attento ad ogni vessatoria. Rendo corrotto tutto ciò che tocco. Sono il re delle menzogne che uso quando mi arrocco. Le persone non riflettono, credono anche l'assurdo. Io da furbo ho notato il difetto e adesso lo sfrutto. Lascia che dica la verità, non avrò più bisogno di negarla. Lascia che dica la verità, non la sentirei più da queste labbra. Lascia che dica la verità, adesso credo proprio che mi tocca. Lascia che dica la verità, non uscirà mai più da questa bocca. Chi ti dice che ti mente è l'unico che non ti inganna. Il resto giura in corruttezza tentando di farla franca. Ma è lo stomaco che manca, è la schiettezza che annega nei pressi di chi pensa ai suoi interessi e per questi la nega. Non c'è nessuna lega, niente accordo che poi non sia stato rotto. E se c'era o c'è stato, non me lo ricordo. Nessun morto per la verità, o meglio uno in croce. Ma quella è la più grande bugia, lo dico ad alta voce. Ammetto di mentire, così sarò onesto. Se un domani vi dovrò spiegazioni, farò presto. Del resto sarò stato l'unico a dirvi il vero, e nel vero sarò stato allo stesso modo scorretto. Ed un mondo perfetto c'è chi l'agonia, un mondo in cui starebbe all'agonia ogni menzogna. C'è chi si è rassegnato ma ogni notte lo sogna. E quanto a me, non fidarti perché avrei soltanto una menzogna. Lascia che dica la verità, non avrò più bisogno di negarla. Lascia che dica la verità, non la sentirei più da queste labbra. Lascia che dica la verità, adesso credo proprio che mi tocca. Lascia che dica la verità, non uscirà mai più da questa bocca.